Le tappe della vicenda Open Arms. 1 agosto 2019, 124 migranti vengono soccorsi nelle acque SAR libiche dalla ONG spagnola Open Arms. Dopo il salvataggio, l'equipaggio chiede l'assegnazione di un porto sicuro all'Italia e Malta, ricevendo come risposta il divieto di ingresso in acque italiane dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, che si muove in accordo con i colleghi 5 Stelle della Difesa e dei Trasporti, Alfonso Bonafede e Danilo Toninelli. Inizia il braccio di ferro con Open Arms. Due migranti e un loro familiare vengono sbarcati per motivi di salute. Sulla nave restano in 121. 9 agosto 2019, gli avvocati della ONG fanno ricorso al Tribunale dei Minori chiedendo lo sbarco dei migranti non ancora maggiorenni e presentano la prima denuncia. Poche ore dopo soccorrono un altro gruppo di persone su un legno in avaria. Stavolta sono in 39. 12 agosto 2019. Il Tribunale di Palermo ordina lo sbarco dei minori. 14 agosto 2019. La nave naviga verso Lampedusa e continua a chiedere a Malta e all'Italia l'assegnazione del porto sicuro. Contro il reiterato no del Viminale, la ONG ricorre al TAR del Lazio. Il presidente del collegio alla vigilia di Ferragosto sospende il divieto di ingresso. 16 agosto 2019. Open Arms presenta un esposto alla Procura di Agrigento sostenendo che, a dispetto della decisione del TAR, Salvini continua a negare l'ingresso nelle acque italiane. Nel frattempo, la situazione a bordo è ingestibile. I migranti, in condizioni igienico-sanitarie precarie da ben 18 giorni, sono allo stremo. Alcuni, vedendo le coste italiane, si tuffano in mare e provano a raggiungere Lampedusa a nuoto. 20 agosto 2019, tensione altissima. L'allora procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio sale sulla nave per accertare le condizioni fisiche e psichiche dei migranti. Parla di situazione esplosiva e sequestra la nave superando lo stallo. A bordo degli iniziali 164 soccorsi in acque SAR libiche, dopo i trasferimenti per motivi medici, sono rimasti in 88. La procura di Agrigento avvia accertamenti e alla fine delle indagini iscrive Matteo Salvini nel registro degli indagati per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio in concorso con il suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi. Per competenza le carte vengono trasmesse ai PM di Palermo, che poi formula l'imputazione per Salvini, mentre archivia per Piantedosi. 1 febbraio 2020. Vengono inviati al Senato gli atti con la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. 30 luglio 2020. Il Senato vota a favore dell'autorizzazione a procedere verso il leader della Lega. 17 aprile 2021. Il GUP Lorenzo Iannelli dispone il rinvio a giudizio per Matteo Salvini. 15 settembre 2021. Comincia il processo che durerà più di 3 anni, con 24 udienze e diversi testimoni, tra cui l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro Luigi Di Maio e quello attuale Matteo Piantedosi. 14 settembre 2024. La Procura di Palermo chiede una pena di 6 anni nei confronti di Salvini per l'intenzionale e consapevole spregio delle regole e diniego consapevole e volontario verso la libertà personale di 147 persone. Sostengono i PM Geri Ferrara, Giorgia Righi e la giunta Marzia Sabella. Ho solo difeso la nazione, si difende Matteo Salvini.